così non è troppo alto, già c'è un raggio, un po' di acuti ti dà in più, eh. Vero, e invece lo tengo così, Massimiliano, a due. Così è buono, Clap, così è buono. Ascolta, fai una prova, metti un... ce l'hai un antisoffio davanti? Sì che ce l'ho, aspetta che lo prendo, che è quello uguale a quello che ho dato a te, aspetta. Ok, aspetta un secondino che scendo a aprire la porta a loro che sono arrivato, arrivo subito. Eia, vai. Ah, prova. Guarda, così c'è la cuffia antisoffio, Massimiliano. Beh, così ti togli un po' gli acuti, eh. Oh, la modulazione è bella. Più bella del P5. Se lo lasci così è più bella del P5. Ah sì, ho abbassato tutto il volume. Cos'hai detto? Più bella? Ho detto, se la lasci così è più bella del P5. Così la posso lasciare, non c'è il problema. La posso lasciare, tra l'altro questa è diretta, perché lo sai che questo microfono qua c'ha il connettore DAC, Cobra, eccetera, eccetera. Mentre l'altro invece c'è l'adattatore. Mi piace, questa qui è una buona modulazione. Hai detto di no, che è troppo alta, troppo incasinata, boh, non so. Claro, i gusti sono gusti, gli arusiai, no? Ma infatti, quindi c'è differenza da così, senza, aspetta, tolgo, ecco qua, ecco, tolgo la cuffia, mettendolo così, Massimiliano, così a 1,5. Così è meglio, Claudio, la verità. Forse era troppo alta. Perché con la cuffia toglie la bellezza del Turner, capito? È molto bello il Turner, è così. Così ce l'ho a 1,5, praticamente più o meno come l'MB più 5, dai. Ascolta, ma con la radio non è a Mickey Game? Sì, Mickey Game al massimo. Lo puoi abbassare leggermente, la radio parlo, lascia perdere il microfono, dalla radio. Sì, guarda, adesso te lo abbasso leggermente, eccolo qua, era al massimo, l'ho messo a mezzogiorno, diciamo, dai. Ok, aumenta il microfono adesso. Adesso ho aumentato leggermente il microfono di un'attacca. Cazzo, vedi, così è più bella. Va bene così, Massimiliano. Non mi sto ascoltando io in cuffia, mi pongo le cuffie. Prova a metterti la cuffia, non toccare niente, lasciala così. Giusto per darti un'idea, forse era troppo spinta dal Mickey Game. Aspetta, mi sto prendendo le cuffie. È bella, voglio una bella modulazione. Cazzo, che il rumore si intende, che è... vedi, così va bene, Massimiliano, a me piace così. Prima mi hanno detto che era troppo alta, secondo me così va bene. Sì, così è buona, Cla, forse ti ripeto, c'avevi il Mickey Game della radio troppo alto, capito? Quindi magari non andava in contrasto col volume del microfono. Infatti, sicuramente, dai. Adesso no, vabbè, c'è anche l'aria al telefono. Allora l'ho abbassato leggermente il Mickey Gain, un'altra tacchetta, e ho sollevato di un'altra tacchetta il microfono. Secondo me va bene così, perlomeno. Non è forte, non è che sia questo granché, però va bene. No, la radio no, è forte, non è bassa. Ascolta, prova senza, lascia questa regolazione, dai una marcia in più a qualcosa. A mettere una marcia in più o in meno? No, in più, sei in quarta, metti in quinta. Ecco qua, adesso è in quinta marcia, Massimilia. Ecco qua, quinta marcia. Guarda, così cioè la modulazione è più limpida, più bella. Oh, va meglio. Allora lasciamo stare così, lo lascio stare in quinta marcia, sono 50 watt pieni, lo lascio stare così, non posso aumentare niente, cioè lo lascio proprio così com'è. Non lo so, cosa vuoi provare, aumentare un altro pelino, perché perlomeno così a me piace molto, come modulazione piace. Così è piacevole, dai, va bene allora, no, non aumento niente, guarda, lo lascio stare così, ecco qua, e basta. Mi sono solo allontanato leggermente dal microfono, dai, sto parlando come parlo con l'MC60 a 20-30 centimetri dal microfono, dai, ok. Guarda, Alba, io ti mando una registrazione, secondo me è troppo bella questa modulazione. Massimiliano, ti sto dicendo, stamattina io ho fatto le prove, c'era Gianfranco e mi ha detto che secondo lui era meglio l'MB più 5, però non è che non mi fidi di quello che dicono gli altri, per carità, però se va bene così col Tane più 3, per tenerlo dentro l'armadio, sino a quando è qua lo uso, cazzo se permetti, no? Usalo tranquillo, che non ti preoccupare, che non sarà da domani né padarito a trattarlo. Usalo. Ascolta, adesso tu prenditi il cellulare, ti ho mandato una registrazione di 20 secondi su WhatsApp. Ascoltati, secondo me è troppo bella. Aspetta che prendo il telefono. Cazzo, non riesci a ritardare? Scusami, va, da una saluci, mi avviso. Guarda bene, ma non ti è arrivato ancora, sicuramente non c'hai. Ma ecco qua, ti è arrivato adesso. Ascoltati, Cla, che poi facciamo una torta di passaggi perché devo sganciarmi a scendere giù, Ehi, aspetta, l'ascolto e poi ti lascio libero. Vai Massimiliano, lascio stare questo e boh, dai, fino a quando c'è qua, lo uso, non me la fotti nulla. L'MB più 5 lo metto dentro l'armadio. È bella la modulazione, no? È favolosa, non bella, è favolosa. Non ho capito io. Io te l'ho detto subito. Secondo me questa qui è la. La modulazione è bella, proprio, cioè non devi più toccare niente, secondo me. Poi giustamente è claro, ognuno dice la sua, già lo sai, però secondo me questa è ottima. No, va bene, come hai detto tu, va bene, lascio stare questa e non se ne va a vedere più cosa devi stare a giamba, che ti giamba, va bene. A me piace, non ha tonalità nasine, l'amplificazione giusta, va bene così. È ottimo per la truppa, Massimiliano. Sì, qua va proprio alla grande. Proprio alla grande. Poi fine settimana mi organizzo con quel cavo che mi ha dato tu, quella cosa là, se ce la faccio, se non piove. Perché non sento tutti, Cos'hai sciolto tutto? Non ci ho compreso. No, ho detto, quel cavo che mi ha dato, quel 58, dovevo fare quella prolunghezza, devo mettere quell'antennino che sei tu lì, capito? Perché non sento a tutti. Ah, sì. No, ma scusa, ma quell'antenna io l'ho proprio fatta già, attenzione, quindi se stai a Sassari. Ora. Mi stavo andando in distorsione. Se sali a Sassari, puoi venire e passare a prenderla e non c'è problema, se gli ha capito. Oh, claro, che non ce l'ho io l'antenna, hai visto quella che ho preso da quella persona là? Te l'ho anche fatta vedere. Ma infatti ce l'hai, però ho detto se vuoi anche usare quella per altri scopi, altre cose, no, non ce n'è problema, io la prova devo fare, l'ho fatta, è dentro l'armadio, capito? Quindi si può tranquillamente provare anche quella lì, non c'è problema. Stavo dicendo, questa batteria da molto ce l'hai di questa radio, di questo microfono? Claro, non me lo ricordo, sinceramente parlando non me lo ricordo. Non so neanche se l'ho mai cambiata, No, secondo me non l'hai mai cambiata. Non lo so, devo misurarla a vedere, dai. Se domani è buona, che è 9 preciso, va bene, gliela lascio. Se è più bassa gliela cambio, gliene metto un'altra. Va bene, dai Massimiliano, le prove le abbiamo fatte e secondo me ha giudicato questo microfono, va bene così. Non lo docco più, ciccia, lascia stare questo, dai, che va più che bene, non bene, più che bene. Ti lascio in piena libertà, grazie di tutto, fatti sentire. Come vedi, non c'è problema, canali ne abbiamo tanti, perciò ci possiamo spostare e fare le prove che vogliamo, ok? Sì, claro, no, già ti ho mandato un messaggio, già lo sai, a me non. Quando capita, claro, già mi fa sempre piacere di usare. Adesso magari è un periodo che sono più la sera a casa e sono più tranquillo là per tutte le cose, capisci a me. Quindi, ti ripeto, era un periodo un po' particolare. Dai, ci aggiorniamo, claro. Un abbraccio. ci sentiamo con la buona di serata. Ah, sì, là c'è, questa è una buona regolazione microfonica, bella, bella radio anche quella. Secondo me è un abbinamento giusto. Ci sentiamo, Claudia, grazie di tutto, grazie alla chiacchierata, quando è già l'usaio, ok? Ciao. Ehi, hey, Massimilia, dai, piena libertà, dai un bacio a Gaia, saluto a Dani e già ci sentiamo. O per telefono o per radio, quando vuoi un messaggio e ci spostiamo per fare prove e due chiacchiere, ok? Ciao, buon fine strato, buon tutto e grazie delle prove, ciao. Ehi, ciao Claudia, grazie, ciao ciao. Ciao, ciao Massimilia.